Rio, Rio, okay, okay. Quando vuoi, man. Io sono pronto. In questo lungo viaggio, datemi retta. Vai, metto a pagina il pianto che segue i volti. Grido più forte al cielo, non credo che Dio mi ascolti. Se scappo col sole, ogni pagina nutre il suono. Ancora penna tra le mani, grido al cielo che sono fuori strada. Fra, non credo in questo Dio sincero, quest'Italia qua. Spezza le braccia più dell'era. Ancora bombe, bombe, troppo tardi per fermarmi. Colpisco forte, forte, so che non potete amarmi. Oh, ancora fiato, nuovi stronzi da stendere. Overfighters, fra, la vecchia sera. La torna a splendere, forse non più cuore, ma il mio nome è da difendere. Ho appena toccato il cielo e voi volete farmi scendere. Se cadranno angeli tra il cielo di settembre, vita il suono dell'asfalto che spinge dentro il suo ventre. Il mondo perde più luce negli occhi di sti cristiani. Mami, spegni le stelle, lascia lacrime alle mani. Pagine d'asfalto, alto, black, side, rap, rap, over, fighters. Se insegue lacrime, macchia le lì dei vizi, so che pagherò il conto alle fiamme dei miei giudizi, bro. La brutta vita incassa spoglie sull'amianto. So che i miei carnefici avevano mani nel pianto. Porto il cielo sulle spalle, io solo so quanto pesa. E se ho colpito qualcuno è stato solo per difesa. Se incide il fuoco dei versi nei miei pensieri, ricordo i grandi amori, le troie infamie sincere. Invecchia il volto fra, ora che la mia stella langue e la mia vita non inchiostro fra, l'ho scritta con il sangue ed ogni lacrima. Trasformo pagine in detriti, brucia la anima, prende i miei angeli sbarriti. Troppa merda qua, strappa il cuore del sentimento. Spezzo schiene per i fatti, asporto lune sul cemento. Man, ho visto il sole morire su queste strade. Questo da quando ha smesso di sorridere mia madre. Pagine d'asfalto, alto, black, side, rap, rap, over, Overfighters. Man, grazie al silenzio sento voci che mi chiamano. Tocco il podio nelle sfide, so bene che fra non mi amano. Andiamo, bruciami l'anima, fra, che può succedere? So che il mondo è cristo ed ogni cuore sta la cenere. Adesso riguardo indietro, uomo, credimi, vorrei luce. Tra queste pagine il matrimonio dei miei, fra, ci metto l'anima in questa vita puttana. Il sudore di mio padre e la sua terra lontana. Per ogni pagina che incassa aspetti nel mio nome ed ogni lacrima lava il piombo di Corleone. La mia infanzia, man, l'ho scritta col fuoco del dramma. Lei distringimi più forte mentre il cielo mi condanna. Chiesa grida più forte ma senza un Dio che ti sente. Spezzano il pane fra, ma non sfamano la mia gente. Se perdo la luce tra fantasmi in questo scontro, tu gridami al mondo tra il fuoco del mio tramonto. DJ Rio Production, Blackside Records, Over Fighters, man. Questo è tutto quello che porto nel cuore. Questo è come lo facciamo in strada, man. Niente cazzate, pagliacci. Ehi, Blade la Motta, 2005 al 2007, man. Yeah.